Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note di Kay Jarrett diamo inizio all'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Sergio Gatti. Buon pomeriggio. Ecco, prima di presentare chi è Sergio Gatti, gli chiedo Kay Jarrett, perché questa passione per la musica, un brano molto noto, il Korn Concert del 1975, peraltro, magari l'ha conosciuto in quel momento e ha accompagnato un po' la sua carriera. In parte è così, in parte rimane un verdissimo, sempre attualissimo esempio di improvvisazione e grandi capacità tecniche, quindi la competenza e la passione, magari adattandosi all'ambiente in cui si suona, è di straordinaria attualità. Un pianista di jazz che però ha anche il culto del classico, quindi il moderno e la tradizione. Ci può essere qualcosa di questo tipo anche in quello che lei fa? E temo proprio di sì, anche se l'accostamento non è voluto, è casuale, ma forse non troppo. Ecco, allora Sergio Gatti è direttore generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Che cos'è? Dunque, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo è un'associazione che raggruppa 400 banche di territorio con finalità mutualistiche, che quest'anno proprio compiono 130 anni. Quindi un'associazione di piccole banche, sono le piccole banche un po' sparse su tutto il territorio nazionale, però con qualche concentrazione particolare in qualche regione. Ci sono concentrazioni nel nord-est, nella Lombardia, sicuramente molto forti in Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Puglia, insomma direi con punte elevate ma con una discreta distribuzione omogenea in tutto il paese. Sono circa 400 mi sembra queste sono banche. Sono 400 con 4.400 sportelli, soprattutto 1.200.000 soci e, cosa a cui teniamo molto, 5.000 amministratori che di mestiere fanno altre cose e poi si dedicano alla gestione del risparmio e all'erogazione degli impieghi alle aziende e alle famiglie del territorio, che secondo noi è una straordinaria esperienza di democrazia economica. Ecco, anche sul fronte bancario si potrebbe dire piccolo e bello, però piccolo anche qualche problema. Quindi il vostro compito è anche quello di far sì che le piccole banche possano offrire grandi servizi? È così, e non c'è soltanto la scorciatoia della grande dimensione, che pure è un importante elemento, c'è la fatica della rete. Noi riteniamo che restare di dimensioni adeguate, non forzatamente grandi, ma molto legate al territorio, molto vicino alla possibilità di fare il relationship banking, cioè la banca di relazione di conoscenza delle storie delle famiglie, delle aziende, e sia un vantaggio competitivo, ma soprattutto un vantaggio per la clientela e per i soci. Allora, mettendosi insieme, e Federcasse ha proprio 103 anni, è proprio l'emblema della necessità di mettersi insieme sin dalle origini, il fare rete, il fare sistema, economia di scala e anche sinergie di vario genere consentono di stare sul mercato e di continuare a crescere anche nelle situazioni di difficoltà. Ecco, appunto, anche in situazioni di difficoltà fare rete è anche un po' una garanzia, cioè diciamo un'ulteriore garanzia. Ci sono in Italia delle garanzie per il sistema del credito, però voi avete delle garanzie diciamo aggiuntive rispetto a questa garanzia generale? È così, non soltanto noi abbiamo un fondo di garanzia dei depositanti obbligatorio per legge a cui tutte le nostre banche aderiscono e che proteggono il risparmiatore fino a 100.000 euro, esattamente come tutte le altre banche italiane, ma abbiamo in più un fondo di garanzia degli obbligazionisti, cioè di coloro che acquistano per investire delle obbligazioni. Anche qui la copertura fino a 100.000 euro, questo significa che il piccolo risparmiatore o il medio risparmiatore che da noi acquista 100.000 euro di obbligazioni di una nostra banca o deposita 100.000 euro nel conto corrente è coperto per 200.000 euro, il tutto grazie alla mutualità. La mutualità, appunto, che è fatta da questa rete che comprende un po' tutte le banche cooperative. Cioè, ma è un obbligo aderire o le banche cooperative aderiscono volontariamente? Le banche cooperative italiane aderiscono volontariamente. In altri paesi, come in Germania, invece l'adesione alle strutture federative, sia regionali sia nazionali, è obbligatoria. Ecco, torniamo tra poco a parlare del sistema bancario, però come la logica di questa trasmissione parliamo anche un po' di lei. Come è arrivato a fare il direttore generale delle banche di credito cooperativo? Davvero un po' per caso, ho iniziato nel mondo della comunicazione, dimensione, e a un certo punto si è aperto una possibilità. C'è stato un bivio in cui tra il mestiere che avevo iniziato a fare, per il quale avevo studiato, e un altro mestiere invece di lavoro all'interno di un sistema complesso come quello delle cooperative e soprattutto delle cooperative bancarie, ho scelto questa seconda strada. Una sfida, cioè, rispetto alla comunicazione, una sfida più allargata. Qualcuno diceva che fare il giornalista è un bel mestiere se si riesce a abbandonarlo presto. Lei forse può essere un caso di questo tipo. Forse per questo. Io non ci sono riuscito, peraltro, continuo a fare il giornalista. Sì, sì, no. Poi mi sono ritrovato, diciamo così, a ricoprire questo ruolo ormai da 3 anni abbondanti, ma davvero un po' per caso e anche a causa della scomparsa del nostro predecessore, quindi non studiavo per fare questo tipo di lavoro. Bisogna cogliere le opportunità, anche se appunto magari sono opportunità legate ad avvenimenti che non dipendono da noi. Spirito di servizio. Lo spirito di servizio. Ma da piccolo cosa voleva fare? Il pompiere, l'ambasciatore? Da piccolo volevo fare proprio giornalista. Ah, quindi fare giornalista è un po' di nostalgia per il giornalismo? Sì, e c'è, e tant'è vero che continuo a seguire il nostro mensile, continuo a seguire il nostro sito web e continuo, anzi da poco ho avviato un'esperienza anche nell'editoria. Noi abbiamo una piccola casa editrice che pubblica sia libri che alimentano la linfa culturale che anima le nostre banche e dall'altra parte anche pubblica dei manuali, degli strumenti operativi per fare banca cooperativa. Quindi il mondo della comunicazione comunque non l'ha abbandonato. Sempre, sempre nel sangue. E anche la banca comunque ha un problema di reputazione in questa fase, è un problema. Sicuramente la crisi che stiamo vivendo ormai da troppo tempo ha per protagonista in negativo le banche, iniziata con il fallimento di una banca come Lehman Brothers, una banca un po' particolare, certamente non è paragonabile alla banca di credito cooperativo, però le banche, abbiamo visto anche recentemente, sono un po' il punto debole, il punto caldo, il punto di crisi. Ecco, su questo fronte l'Italia è un po' messa meglio degli altri paesi. L'Italia è messa meglio degli altri paesi, occorre spiegarlo bene ai nostri risparmiatori, in genere al pubblico italiano. Debbono essere comunque consapevoli, non dico orgogliosi, ma consapevoli che il sistema bancario italiano nella sua interezza è più solido, è ben governato, non ha avuto bisogno di aiuti pubblici se non per una frazione che ovviamente è stata anche al centro delle attenzioni, ma davvero non è nulla rispetto ad altri grandi paesi che spesso ci danno i compiti a casa. Parlo quindi di paesi come la Germania, la Francia, soprattutto la Gran Bretagna. Quindi il nostro sistema bancario è solido e occorre quindi evitare di generalizzare e di semplificare. Ecco, le eccezioni possiamo dire confermano la regola, ci sono delle eccezioni, ma la regola generale è che ci sono le banche sono sostanzialmente solide, le piccole banche, ma anche le medie banche, non solo le vostre, anche le banche popolari, anche le casse di risparmio e le banche che hanno avuto un grande processo di aggregazione negli ultimi anni. Negli anni 80 si parlava di foresta pietrificata per descrivere il sistema bancario italiano. C'è stato un grande movimento. Voi siete rimasti, le banche di credito cooperativo sono rimaste legate un po' alla tradizione. Noi siamo rimasti legati al territorio, alla vocazione mutualistica che è garanzia di qualità. Se noi cadessimo in tentazione e volessimo scimmiottare e quindi cadere nell'omologazione, perderemo ogni tipo di vantaggio competitivo, ma direi ogni tipo di senso. Il nostro senso è quello di restare legati a una logica di creazione di vantaggio e non generazione di un dividendo per i nostri soci. I nostri soci sono appunto dei soci e non sono degli azionisti che si aspettano un ritorno finanziario del loro investimento. Tutto questo però va condito con dei numeri, nel senso nei 20 anni che ci separano ormai dall'avvio del testo unico bancario italiano, che ha segnato uno spartiacque nella storia bancaria ed è nella storia economica del nostro paese, le nostre banche sono cresciute a un ritmo fino all'inizio di questa grande crisi che era di 2 cifre. E soprattutto in termini di capacità di servizio alle imprese. Paradossalmente noi siamo diventati più bravi e comunque più attenti alle necessità delle imprese che a quelle delle famiglie, che rimangono ovviamente comunque il centro delle nostre attenzioni. Quindi in questo momento noi con 150 miliardi di raccolta complessiva e 140 di impieghi diamo un bel contributo sia alla gestione del risparmio sia soprattutto alle la gestione delle imprese. Ecco, le imprese che peraltro dietro si lamentano un po', le imprese forse si lamentano e hanno ragione a lamentarsi. Tra le lamentele c'è anche quella delle banche, che sono un po' restie a dare il credito, soprattutto in questo momento di difficoltà. Le banche certamente hanno le loro cautele ed è giusto che siano prudenti. Forse potrebbero essere prudenti un po' di meno e rischiare un po' di più, ma è giusto chiedere alle banche di rischiare un po' di più con le imprese? Ecco, non possiamo dimenticare che le banche non rischiano soldi propri, ma soldi dei risparmiatori. Questo è molto importante, perché noi a volte dimentichiamo che ci rivolgiamo alle banche nella doppia funzione, come il soggetto, l'impresa al quale affidiamo i nostri risparmi, aspettandoci non soltanto che tornino indietro tutti, ma che tornino indietro anche ben remunerati. E dall'altra parte ci aspettiamo di ricevere un prestito, che ovviamente deve essere alle condizioni migliori possibili. Allora, l'arte del banchiere è esattamente questo, trovare un punto di equilibrio costante e la capacità di valutare il merito di credito, cioè la bontà di un progetto e la bontà di colui che lo propone e si propone di condurlo. Ora, è anche qui troppo semplice dire che le banche sono avide. E c'è una situazione di recessione che ovviamente fa sì che la quota di credito deteriorato, cioè che non rientra, è in crescita purtroppo spaventosa, e questo fa sì che il patrimonio delle banche venga assorbito dalla necessità di coprire questo credito che non rientra. Se si abbassa la quota di patrimonio è più difficile erogare nuovo credito. Per quanto riguarda, questo è purtroppo un dato comune, per quanto riguarda la nostra esperienza con i nostri 4.400 sportelli, noi abbiamo continuato a dare credito anche nel 2012, quindi facendo segnare un più 1% rispetto all'anno precedente. Però dobbiamo indubbiamente dire che, oltre ad essere anticiclici, noi cominciamo a diventare vulnerabili, tra virgolette, nel senso che la quota di sofferenze continua a crescere anche da noi. Quindi occorre veramente essere molto attenti, molto prudenti, non abbandonare le imprese che ancora hanno una qualche prospettiva, perché soprattutto nei territori, se noi non contribuiamo a mantenere viva l'occupazione e le imprese, non abbiamo poi altre imprese con le quali lavorare, e per noi è fondamentale. Certo, è fondamentale riuscire a dare ossigeno alle imprese, perché le imprese possano crescere, possono innanzitutto sopravvivere e poi possono crescere, se no metterebbero in difficoltà anche i crediti precedenti. Quindi ecco, in questa prospettiva una delle critiche che si fa è quella che le banche danno del credito attraverso dei meccanismi automatici: guardano i bilanci, mettono al computer 3 o 4 dati e il computer sforna sì o no a seconda di parametri un po' astratti. Forse delle banche cooperative è un po' meno vero, c'è un rapporto diretto, un rapporto molto più personale con l'imprenditore. È così, e sarebbe bene che lo confermassero i nostri soci, i nostri clienti che sono imprenditori nei diversi settori. E le posso dire questo: noi siamo in attesa di Basilea 3, ma intanto è in vigore Basilea 2. Allora, noi negoziamo, nel senso che partecipammo alle trattative, ovviamente con le nostre capacità, con le nostre caratteristiche, per far sì che Basilea 2 non imponesse soltanto dei metodi quantitativi nella valutazione del merito di credito, ma che lasciasse uno spazio anche alla componente qualitativa, cioè alla conoscenza di tutto ciò che è difficilmente rintracciabile in un bilancio o inseribile in un algoritmo. Questa cosa ci ha consentito, ad esempio, in tutti questi anni di continuare a offrire un servizio che in genere è apprezzato, in termini soprattutto di quantità, ma anche poi di condizioni con cui il credito viene erogato. Ora, Basilea 3 è una frontiera, e quindi io ritengo che occorra anche consapevolezza da parte del cittadino, soprattutto da parte dell'imprenditore, perché le regole che ormai sono scritte sempre più lontano dai nostri paesi, a Bruxelles e per la parte tecnica a Londra, dall'autorità bancaria europea, tengano conto di come è fatta l'economia europea e l'economia italiana, l'economia europea continentale, non quella anglosassone. Ecco, e cioè forse per chi ci segue, spieghiamo che Basilea 3 è un po' la cornice di regolamentazione europea e anche internazionale delle banche, che fissano un po' i parametri di sicurezza entro cui le banche devono agire. Su due componenti fondamentali, e cioè il capitale e la liquidità, quindi l'adeguatezza del patrimonio con cui le banche operano e anche le dotazioni di liquidità con le quali appunto debbono essere pronte a far fronte ad eventuali shock. Ecco, si chiama Basilea perché la città svizzera di Basilea c'è la banca dei regolamenti internazionali che coordina appunto il sistema dei pagamenti, ma poi di fatto queste normative vengono elaborate, come diceva, da Bruxelles per la parte dell'Unione Europea, a Londra per i mercati finanziari. Sì. Quindi c'è una normativa, diciamo, complessa a livello ormai globale. È così, e io dobbiamo fare attenzione, cioè presidiare. È importante che i nostri ascoltatori possano cogliere, se io riuscirò ad aiutarli, questo dettaglio, cioè ci sono le strategie delle banche che ovviamente possono concedere in una stagione piuttosto che in un'altra del credito a condizioni di un certo tipo o meno, ma ci sono poi delle regole, e cioè se da ora in poi e dall'anno prossimo, dal 2014, occorrerà avere una dotazione patrimoniale più ampia per poter concedere la stessa quantità di credito, questo vuol dire che o si è così bravi nella crescita del patrimonio oppure bisogna abbassare la quota di credito. Incontri. Con le note di Keith Jarrett, il Con Concert, opera di Colonia 1975, riprendiamo il nostro incontro con Sergio Gatti, direttore generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Federcasse. Abbiamo parlato nella prima parte anche del sistema bancario, di come sono nate, sono cresciute queste banche di credito cooperativo, dei problemi e delle opportunità che il sistema bancario si trova ad affrontare in questa fase, certamente difficile per le famiglie, per le imprese, ma per le stesse banche, anche se la realtà italiana, ci spiegava il dottor Gatti, è una realtà certamente che ha maggiori sicurezze rispetto ad altre realtà di cui si parla in questi giorni, ma anche realtà che sembrano apparentemente più solide come quelle dei grandi paesi europei. Le banche italiane, tranne qualche eccezione che conferma comunque la regola, ecco, sono sostanzialmente solide, in grado di garantire i loro clienti, i risparmiatori che hanno anche investito nel capitale di queste banche. Allora, le banche di credito cooperativo, una realtà che non è solo italiana, tra l'altro è una realtà che è nata, mi sembra, in Germania, dottor Gatti. È così, da Federico Guglielmo Raiffeisen, proprio in Germania, ma anche in altri paesi di lingua tedesca, come in Austria, in Svizzera e anche in Alto Adige, le nostre banche di credito cooperativo portano il nome proprio di Casse Raiffeisen, in onore del fondatore. Ecco, quindi in Italia sono sviluppate sulla base di questo modello, anche in virtù di un'attenzione del mondo cattolico al sistema della cooperazione, che sul fronte invece forse più della cooperazione di lavoro era un'attenzione più, diciamo, dei valori socialisti. Ci sono le cooperative rosse e le cooperative bianche, lo sappiamo molto bene. Il sistema bancario è legato forse più al mondo cattolico. È così, c'è un cardinale, Cardinal Silvestrini, che ha definito le casse rurali un po' le icone della dottrina sociale cristiana, e noi in effetti siamo debitori di Leone XIII, della prima enciclica sociale che promulgò nel 1891, la Rerum Novarum, che aveva proprio questa intenzione di portare cose nuove di fronte alle cose nuove che viveva la società. Tra le cose nuove, tra le ricette, c'era una capacità di reazione entrando nella società. Una di questi strumenti era proprio la creazione di casse rurali, dove gli artigiani, gli agricoltori, coloro che non avevano accesso fisico alle banche, potevano mettersi insieme per poter risparmiare. È sempre prima necessario risparmiare, certo, per poi poter prendere e garantirsi reciprocamente il piccolo credito. Ecco un po' il compito delle banche, di passare i soldi da chi ne ha e vuole risparmiarli a chi ne ha bisogno e sa come utilizzarli. In questo senso, nella prospettiva però della mutualità, la mutualità resta un principio di fondo, così come quello appunto che ebbe inizio proprio con la Rerum Novarum, venne definito la Rerum Novarum della sussidiarietà, cioè anche della capacità da parte delle comunità locali di fare delle iniziative in proprio, mettersi insieme a livello locale cercando appunto di sostituire senza aspettare appunto un intervento dall'alto, un intervento dello Stato. Quindi queste sono banche che nascono dal basso, nascono dalle realtà locali e restano nelle realtà locali. Esattamente così, ci sono due parole magiche, secondo me ancora di grande attualità dopo 130 anni, e cioè il territorio e il lungo termine. E quindi la geografia e il tempo, se così possiamo dire. Il territorio, perché la banca mutualistica non può che avere una operatività limitata nel territorio, tant'è vero che i soci, cioè i proprietari delle nostre 400 banche di credito cooperativo, debbono risiedere o svolgere la loro attività professionale o imprenditoriale in un determinato territorio. E non è un caso che la normativa obbliga le nostre banche a erogare credito almeno per il 95% del totale soltanto a chi abita o opera nel territorio. Quindi è una garanzia di localismo, non si prende il risparmio nel territorio per esportarlo altrove. Il secondo dato è quello del lungo termine. Se non ci fosse questa capacità, e non ci fosse stata questa capacità di guardare con una logica intergenerazionale dai nostri padri, cioè coloro che con pochissime risorse in valli sperdute hanno fatto crescere queste casse rurali, poi diventate banche di cooperative, oggi non ne avremmo appunto 400, di cui la metà con più di 100 anni. Quindi non abbiamo più dei grandi blasoni, dei grandi brand, ma abbiamo ancora queste piccole banche molto sentite, molto partecipate, che portano il brand, il nome del territorio nella loro denominazione sociale. È un valore che va preservato. Ecco, in questa prospettiva appunto il territorio è importante, ma in questa fase di difficoltà, noi avete appunto questa struttura di 400 banche, ma ne nascono anche di nuove? Ne nascono anche di nuove e un po' in tutta Italia. In questo momento la Banca d'Italia sta cambiando la normativa secondaria che regola e che pone condizioni quindi nuove, un pochino più severe, opportunamente più severe. Questo avevamo cominciato a farlo anche noi con una policy interna, sia in termini di numero di soci, sia in termini di quantità di capitale minimo per avviare una nuova banca. Ma c'è voglia di banca di territorio e di banca di lungo termine, di banca che non promette di distribuire dividendi, ma che si impegna invece a dare vantaggi, sia nella remunerazione del risparmio, per quanto sia possibile oggi, sia soprattutto nelle condizioni di erogazione del credito. Ecco, come vede il futuro di questo sistema bancario? Il futuro, appunto, parlava di lungo termine. Il lungo termine è una prospettiva certamente abbastanza avanzata, però ecco, c'è un'evoluzione in atto, ci sono dei cambiamenti in atto, ci sono anche necessità di dare delle garanzie ulteriori al sistema, ai risparmiatori. E come vede il futuro di queste banche di credito cooperativo? Dunque io vedo tre passaggi fondamentali. Il primo è quello di investire sulla qualità delle persone. Sono le persone che creano il cambiamento non si crea senza le persone, occorrono persone sempre più consapevoli a partire dai nostri amministratori, ma anche i 37.000 nostri colleghi, sono 37.000 le persone che lavorano nel credito cooperativo, affinché si rendano conto della necessità di dover cambiare anche approccio, studiando di più e facendo sì che questo modello straordinariamente moderno continui ad esserlo, pur rimanendo fedele a un'identità che è irripetibile, è inimitabile. Quindi investire sulle persone. Il secondo passaggio è quello di escogitare forme nuove di esprimere la mutualità, nel senso che oggi è un po' più difficile rispetto anche soltanto a 15-20 anni fa creare vantaggi soprattutto di carattere bancario in termini di migliori condizioni, ma occorre ovviamente continuare ad impegnarsi. Si possono invece creare risposte, lo stiamo già facendo, farò due esempi molto rapidi, in termini di aggregazione della domanda di altre necessità della gente comune, per esempio l'energia e per esempio l'assistenza sanitaria integrativa. Noi su questi due filoni possiamo proporre ai nostri soci, ai nostri clienti, in maniera sempre più ampia, delle soluzioni sia in termini di acquisto comune sul mercato libero dell'energia, appunto delle fonti di energia, questo sia per le famiglie sia per le imprese, ed è particolarmente importante abbassare il costo dell'energia in un paese come il nostro, e in secondo luogo accompagnare, se vogliamo, il ritiro del pubblico dal welfare, facendo nascere un welfare di comunità e dando vita, insieme ad altri soggetti della cooperazione, per esempio le cooperative e i consorzi sociali, insieme alle mutue che noi abbiamo promosso ormai in un numero superiore a 40 accanto alle nostre banche, per poter erogare dei servizi integrativi in termini soprattutto di prevenzione, perché si allunga la durata della nostra vita, per fortuna, ma questo richiede una capacità di organizzare il servizio e di accompagnamento sia sanitario sia di servizi sociali. Quindi la capacità di coagulare un po' anche dei servizi, diventare le società di servizi un po' a largo raggio. Restare banche, ovviamente, ecco, mutualistiche, ma attente alle persone. La centralità delle persone nel territorio è quello che ti dà la misura, il termometro delle necessità. Noi rimaniamo a respirare in sintonia con il paese. Ecco, in questa prospettiva che cosa chiedono le banche di credito cooperativo al paese, alla politica, a un governo? Quali sono le priorità di scenario per poter continuare ad operare secondo quella logica che abbiamo visto prima? Parlavo all'inizio del nostro mensile che raggiunge i nostri 37.000 colleghi e 5.000 amministratori. Io mi sono permesso di suggerire un decalogo per chi governerà. Non citerò ovviamente tutte e 10 le proposte, ne citerò soltanto due. La prima è quella di ricordare l'articolo 1 della Costituzione, cioè la politica con la P maiuscola non può dimenticarsi che l'obiettivo in questa fase storica, ma in generale, ma in questa fase storica in maniera particolare, è quella di creare le condizioni perché forme anche nuove di lavoro si vengano a creare, soprattutto per i nostri giovani. Il secondo, su cui mi soffermo soltanto un attimo di più, è un ricordare ai nostri governanti, in genere ai nostri politici, di partire per Bruxelles con due cose nel trolley. La prima cosa è di portare una visione originale degli Stati Uniti d'Europa che si stanno costruendo, senza averli magari progettati, e che siano coerenti, questi Stati Uniti d'Europa, con la morfologia, con la cultura, con l'identità, con il grado di civiltà del nostro continente, che rischia di essere schiacciato se noi andiamo a scimmiottare altre soluzioni. La seconda cosa da non dimenticare nel trolley è la voglia di incidere laddove si disegna, ad esempio, l'unione bancaria. L'unione bancaria è un passo avanti fondamentale che noi sosteniamo, ma si può arrivare in diversi modi all'unione bancaria, non dimenticando, ad esempio, le esperienze che sono poi le più solide un po' in tutta Europa, soprattutto nei paesi del centro-nord Europa, dove la banca cooperativa non soltanto non è andata in crisi e non è stata causa di crisi, ma è stata la banca che ha reso meno dura la crisi. Questo è valido anche per l'Italia. Allora, ricordarsi che l'Europa è ricchissima di esperienze dal basso, non si possono omologare, non si possono scrivere regole uguali per tutti. Ecco, ci avviamo alla conclusione, siamo all'ultima due domande forse, ma in questa prospettiva proprio del non omologare, del dare valore alle esperienze come quella italiana, lei vede una prospettiva di crescita anche di questo sistema e di capacità di questo sistema di sopportare un'economia reale che ha sicuramente il fiatone, il fiato grosso, per non usare altre metafore certamente più complesse? Ci vengono incontro in questa speranza, con una speranza fondata, e noi non possiamo che essere prigionieri della speranza. Ci vengono incontro i classici, Giuseppe Toniolo, economista, l'anno scorso salito nel degli altari, scriveva in tempi non sospetti che l'assetto normale dell'economia comporta che il capitale, cioè il denaro, si associ direttamente e durevolmente al lavoro. Se i soldi si allontanano dal lavoro, sicuramente non producono ricchezza stabile, cioè occupazione e reddito. Noi pensiamo che il nostro paese, che sa lavorare molto, possa trovare nelle banche gli stimoli per rinnovarsi, per avviare una fase di cambiamento che deve partire soprattutto da noi, lo riconosciamo, ma senza dimenticare la straordinaria vitalità che il capitalismo di territorio, che l'imprenditorialità diffusa, continua ancora a manifestare e che sarà sicuramente la chiave di volta per la ripresa. Noi vogliamo far crescere anche giovani imprenditori e abbiamo qui un programma ad hoc. Il denaro deve essere uno strumento indispensabile, ma restare uno strumento capace appunto di dare vita, di dare anche un'anima al fare la banca e al fare l'impresa. In questa prospettiva, se lei è d'accordo, concludiamo questo nostro incontro. Grazie a Sergio Gatti, direttore generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come le altre puntate di Incontri, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.